da BNUT, ancora una volta, pronti, via. Ti assicuro che ci vuole un attimo, sì, perché le cose cambino. Basta un evento, l'essere lì proprio in quel momento. Se quel giorno solo avessi detto no, le mie idee chissà dove sarebbero. Probabilmente i miei pensieri oggi marcirebbero. Cerchi concentrici, il dio degli eccentrici, dei sogni stratosferici, dei gesti isterici. Mentre oggi abbraccio i miei amori soddisfatto, perché in quell'attimo. Ma ti assicuro che ci vuole un attimo, perché le vite si spacchino in pezzi che anche se si riattaccano lasciano crepe che non piacciono. Ti sei illuso giorno dopo giorno, ora sei il punto di non ritorno. Adesso se ti guardi allo specchio non ti riconosci nemmeno. Il ricordo di quello che eri prima sembra essere così lontano. E tu che provi a ricordare se ci fu un attimo in cui si poteva evitare. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. Per momento. Ti assicuro che ci vuole un attimo, sì, perché le forze manchino. Basta volere, fare il tuo dovere, finché non resti a sedere. Mi hanno chiesto solo un altro sforzo, e l'obiettivo che ho sempre rincorso sarebbe solamente un passo, solo un altro morso. Invece viene il giorno che mi riprendo e sento che tutto ciò che attorno è spento. La mente è un equilibrio fragile come il vetro, ed è un attimo non tornare indietro. Ma ti assicuro che ci vuole un attimo per andare in panico. Basta subire ogni costo, stando al tuo posto, morendoti addosso. Tutti quei che sono venuti a bere hanno lasciato vuoto il mio bicchiere. Io che ero così buono, adesso devo morire di sete. Fanculo quanti siete, non mi avrete, non potete prendere tutto quanto. E da buon uomo diventi il più bastardo antipatico in un attimo. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. È un attimo. Il tempo vola, non concedervisi. Viveremo un momento. Per momento. Ti assicuro che ci vuole un attimo perché i nervi saldino. Basta trovarsi il giorno sbagliato nel posto sbagliato, un classico. Mille volte che ho lasciato perdere, sì, ma sto cane adesso vuole mordere, no. E quel brivido che corre giù per le vertebre mi avverte. Se non avessi dato retta a quei fessi non starei scappando adesso. Via. Invece spero nessuno mi abbia visto nel misfatto, perché in quell'attimo. Ma ti assicuro che ci vuole un attimo per sentire il battito di un cuore sincero, quando leggi negli occhi chi è in pace e chi è in sclero. Perché siamo come delle bestie, ed il caos nelle nostre teste ci condiziona davanti a una persona già da come si veste. Ma è paura di quella che è la nostra natura, mentre diamo la colpa alla cultura. Il prossimo livello di saggezza è leggere l'attimo in sto mondo di matti. E ti assicuro che ci vuole un attimo, ma per riuscire devi dare il massimo, perché guardiamo gli anni mentre passano, fatti di attimi che non ritornano. Ti assicuro che ci vuole un attimo.